Viva Voce con Alessandro Milan. Sono le 9:06 in questo istante, gentili ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta. La mail vivavoce@radio24.it, sms al 349 238 6666. Chissà, magari se ci state ascoltando in macchina poco fa o in questo momento, state portando un figlio all'asilo. Lo avete, oppure non lo portate all'asilo perché preferite tenerlo a casa, oppure non lo portate all'asilo perché non ce l'avete fatta ad entrare nelle famigerate graduatorie. Pochi e costosi gli asili nido in Italia e le scuole d'infanzia sembrano essere così. Pochi perché l'Europa ci dice che entro l'anno prossimo il 33% dei piccoli da 0 a 3 anni dovrebbero trovare posto nelle strutture italiane. L'Italia però è ancora ben lontana da questa cifra. Oggi solo l'11,4%, cioè solo 11 bambini su 100, trovano posto negli asili nido. E poi i costi, che costi per i comuni? Sapete per esempio quanto costa al comune di Roma ogni posto in un asilo? 15.746 euro l'anno, 1.320 euro al mese. A conti fatti, come scriveva di recente il Corriere della Sera, il comune di Roma converrebbe pagare una babysitter privata alla famiglia e tenersi il bambino a casa. Pochi e costosi gli asili nido in Italia. La politica non manca, non spreca tempo nel fare una serie di annunci periodicamente a ogni campagna elettorale, ma ogni anno torna fuori questa questione. Si sente l'immancabile annuncio: bisogna raddoppiare gli asili nido. E poi chissà. Ne vogliamo parlare oggi. Voglio salutare la professoressa Chiara Saraceno. Buongiorno professoressa. Buongiorno. Insegna sociologia della famiglia, attualmente è a Berlino, al centro di ricerche sociali. Le 9:09, 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta. Dunque, sono pochi e costosi gli asili in Italia. Come detto, nel 2010, secondo gli obiettivi fissati dall'Unione Europea, il 33% dei piccoli da 0 a 3 anni dovrebbero trovare posto. In Italia trova posto attualmente l'11,4%, davvero siamo lontanissimi. Poi vedremo, ci sono dei comuni dove va meglio, dei comuni dove va peggio, delle interessanti classifiche, se vogliamo così, anche per quel che riguarda i costi. Cercheremo di capirle anche con qualche amministratore locale. Professoressa Saraceno, innanzitutto mi faccia capire, visto che lei sta in Germania, ci dia una prospettiva da quel punto di vista. Siamo così indietro? No, la Germania non è forse il modello da cui guardare, bene. Perché la Germania è divisa, c'è una buona copertura nei land dell'ex Germania Est, mentre quelli della Germania Ovest sono sotto copertura. Quello che è interessante e che è molto diverso dall'Italia è che il dibattito politico e l'agenda politica includono molto fortemente, anche in questo momento di crisi, l'idea che bisogna aumentare l'offerta, soprattutto a Ovest. Il dibattito in Germania ha diverse come dire, origini. Uno è la necessità di sostenere l'occupazione femminile, in particolare l'occupazione femminile delle donne più istruite, le quali di fronte all'impossibilità di conciliare lavoro e famiglia troppo spesso decidono di non fare figli se vogliono stare nel mercato del lavoro. Ma c'è anche un altro aspetto che è molto interessante, che bisognerebbe ricordare quando si parla di servizi per l'infanzia, ovvero la necessità di offrire ai bambini fin da il più presto possibile risorse proprie che non dipendano solo dalla famiglia, in particolare per contrastare le disuguaglianze. per integrare meglio gli immigrati, cioè c'è una grande preoccupazione non solo in Germania ma anche in altri paesi sul fatto che i servizi per la primissima infanzia non devono riguardare soltanto i problemi di conciliazione, lavoro, famiglia, in particolare per le madri, ma devono sempre di più essere orientati alla integrazione, all'arricchimento culturale, al fornire appunto risorse culturali, cognitive, eccetera, ai bambini per contrastare le disuguaglianze dell'origine familiare. Senta, professoressa, quando di recente il ministro Brunetta ha detto, suscitando quel vespaio di polemiche, portiamo la pensione a 65 anni anche per le donne, non è giusta, è una discriminazione per loro prima di tutto andare in pensione a 60 anni, andare in pensione prima, giustamente a mio modo di vedere da molte donne si è detto, beh, cominciamo a garantire tutte quelle che sono le parità di lavoro, le parità di stipendio, anche le parità di condizioni, per esempio dando più asili nido, perché altrimenti poi sì, siamo una famiglia moderna, ma a chi se li gestisce i figli, e soprattutto le donne, non gli uomini, sempre di più è così. Secondo lei è una lettura giusta anche più asili nido, più giustizia se si vuole nel mondo del lavoro, e poi allora si possono fare anche altri discorsi? Ma io ne ho anche scritto, cioè io sono favorevole a un'equiparazione dell'età, però appunto in cui i risparmi che si fanno mandando in pensione le donne più tardi devono essere tutti investiti nell'affrontare il problema della cura, perché questo che riguarda i bambini piccoli, riguarda anche i bambini in età scolare, che riguarda anche, perché c'è anche il fatto che adesso il ministro Gelmini vuole ridurre il tempo a scuola e i bambini di quando tornano a casa a mezzogiorno, dove... Beh, sa, questo è un tema dibattuto, non entriamo in questa polemica, no, perché sennò il ministro Gelmini che non c'è direbbe che non è così. È un problema un po' più complicato, ecco, cioè la cura non riguarda solo i bambini fino a 3 anni, questo voglio dire, riguarda tra l'altro anche gli anziani fragili e così via, quindi è vero, stando a noi, ci vogliono più nidi, ci vuole anche più un congedo genitoriale meglio remunerato. Per dire, stando appunto in Germania, la Germania era più indietro dell'Italia da questo punto di vista fino al 2007. Dal 2007 il congedo dura un anno ed è pagato al 67% dello stipendio. Questo facilita anche il fatto che i padri lo prendano, perché se è pagato meglio... I padri che di solito hanno lo stipendio più grande hanno meno resistenze a perdere proprio così tanto perché in Italia è pagato solo il 30%. Certo. Senta, venendo alla questione, visto che così introduciamo anche qualche amministratore locale, io davanti a me una classifica, si può dire, quella che di recente è stata fatta in una ricerca dell'ANCI, che è l'Associazione dei Comuni Italiani. Io ho citato per esempio la questione dei costi, mi ha molto colpito. A Roma il costo per bambino in euro è di 15.049 euro, come detto, 1.230 euro al mese, no, 1.320 euro al mese, cioè, conti fatti, come ha detto al sindaco Alemanno, converrebbe pagare una babysitter sostanzialmente. A Milano costa la metà, 7.774 euro, a Napoli 5.830 euro, a Torino 5.053 euro. E poi c'è la questione del tasso di copertura, anche qui cose disparate, le vedremo anche nel corso della trasmissione, la media dell'11,4%, come detto, quindi 11 bambini su 100 riescono a trovare spazio nel nido quando l'Europa ci chiede che siano almeno il 33%, solo Bologna credo, sì, solo Bologna è al 35%, dunque è in linea dei grandi capoluoghi, è in linea con l'Europa. Firenze è al 29%, nelle grandi città, Roma per esempio è al 14%, Milano al 22%, Napoli al 4%, un disastro, Torino al 16%. Allora, io voglio salutare, ci ha raggiunto Sergio Rizzo del Corriere della Sera. Buongiorno Sergio. Buongiorno. E tra l'altro autore di questo focus, hai preso questa classifica dell'IFEL, che è l'Istituto della Finanza dell'ANCI, per analizzarlo. C'è già anche un sindaco che voglio salutare, il sindaco di Verdello in provincia di Bergamo, Tiziana Agostinelli. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Tra poco sono da lei. Sergio Rizzo, allora, perché pochi e costosi gli asili nido? O meglio, partiamo dalla politica. La politica, io ho detto in apertura, tu non eri ancora arrivato, ma fa dei grandi annunci, dopodiché che cosa di concreto fa? Molto poco, mi sembra. Molto poco, perché poi tutte queste promesse, questi propositi spesso buonissimi, come è accaduto durante il precedente governo di Romano Prodi, quando il ministro Rosi Bindi, no, promise uno stanziamento cospicuo per gli asili nido, poi queste risorse spesso e volentieri si perdono nei meandri della burocrazia. Il famoso piano nidi lo definì Rosi Bindi. Ma se ne parla di piano nidi, se ne parla da 25 anni. Io ricordo che ci fu un'indagine, tra l'altro io l'ho anche citata in quell'articolo, un'indagine fatta negli anni 80, quando era ministro niente meno che Costante De Gan, non so, forse qualcuno di voi se lo ricorda, sì, pure, che arrivò alle conclusioni identiche a quelle a cui è arrivato l'IFEL, cioè che gli asili erano anche allora pochi, costosi e soprattutto ce n'erano al sud pochissimi, al nord un po' di più, e c'era una differenza anche nella qualità del servizio enorme, ecco. Tra l'altro, questo piano nidi, leggevo di recente, si tratta di 743 milioni stanziati da Stato e Regioni per costruire queste scuole. Leggevo proprio qualche mese fa che di questo stanziamento, 743 milioni, ripeto, praticamente se ne è usati zero. Cioè, che vuol dire, Rizzo? Spiegaci anche tecnicamente. Cioè, ci sono questi soldi ma non si usano, le Regioni non li usano. Ma no, perché il meccanismo, diciamo, di distribuzione di queste risorse è talmente complicato che poi alla fine non riescono a usarle. Tenete presente che c'è una grande differenza anche nell'efficienza delle amministrazioni, quindi soldi usati, cioè soldi distribuiti in Campania, non hanno lo stesso effetto dei soldi che vengono distribuiti, che sono in Lombardia. C'è una, come dire, l'Italia è come una grandissima pelliccia di leopardo, non lo sappiamo com'è, quindi da questo punto di vista, come dire, sarebbe molto meglio che si facesse un'operazione diversa, vale a dire incentiviamo le aziende, no? Facciamo come negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti c'è un meccanismo per cui le aziende vengono incentivate a creare al proprio interno gli asili nido, un po' come accadeva in Italia, ai tempi di Adriano Olivetti, no? Quando si cominciò già negli anni 40, no? Alcuni imprenditori illuminati a creare all'interno delle fabbriche. Fare nidi nelle aziende. Esatto. Su questo ci arriveremo, perché c'è anche Chiara Saraceno. Ti chiedo, Rizzo, perché questa disparità di costi? Perché a Roma un asilo costa 15.000 rotti? Perché conviene ad Alemanno, converrebbe, visti i conti, come hai detto anche tu, una babysitter privata per tenere il bimbo a casa, mentre a Milano costa la metà? Ma sai, questo è un po' come la scuola. Cioè, ci sono delle strutture che vanno mantenute. Io non penso che gli asili nido a Roma siano peggiori che non in altre città del centro nord o anche, diciamo, delle province più ricche. Ci sono però delle situazioni dove oggettivamente il costo è talmente alto che veramente si farebbe molto prima a mandare una babysitter a casa di ogni bambino. Questo dipende dal fatto che ci sono strutture da mantenere che sono costose. Naturalmente, quando poi ci sono le economie di scala, tutto cambia, ma anche Roma è una città difficile, lo sappiamo. Chiunque di noi, io abito qui a Roma e avendo tre figli, mi è capitato per tre volte di tentare di mandare il figlio al nido e non ci sono mai riuscito. Sì, le famose graduatorie che ho citato io. Non ci sono riuscito perché poi si scopre alla fine che le graduatorie sono tutte finte in qualche modo, no? Perché poi sappiamo che ci sono molte persone che dichiarano redditi che non sono redditi reali, e quindi poi alla fine succede che chi è costretto a dichiarare il proprio reddito tutto intero finisce in cima alla graduatoria dei ricchi e quindi non può mandare il figlio al nido. E questo sicuramente. 800 24 00 24 per intervenire. Ovviamente anche via sms ci arrivano molti messaggi, insomma, di confronti di prezzi, di quello che si paga. Poi magari li vedremo. Io però vorrei andare per un attimo a Verdello, perché Come detto, sentiremo qualche amministratore dove costa di più l'asilo, qualche amministratore dove costa di meno, qualche amministratore dove magari all'asilo ci vanno davvero pochi bimbi e l'accessibilità agli asili sono a livelli infimi. Verdello, ci ha colpito questa notizia. Attenzione, il sindaco che è Tiziana Agostinelli è qui, ce la spiegherà. Ascoltatela bene, perché quando io l'ho letta sui giornali ho detto: ma come, siamo arrivati a questo punto? Chi prima arriva ha la precedenza per l'accesso a la scuola dell'infanzia Paolo VI di Verdello. Che cosa succede? C'erano 17 posti disponibili, i genitori si sono messi a passare una notte all'addiaccio, e di sti tempi non fa neanche granché caldo, per poter essere i primi a iscriversi il giorno dopo. Sindaco, che paese è l'Italia, voglio dire, se noi leggessimo così come fotografia questa storia? Ecco, se ci fermassimo così alla visione superficiale, noi diciamo: ma sono cose assurde. Nella realtà il problema qual è? Allora, innanzitutto non è una scuola che dipende dal comune di Verdello o dallo Stato, ma stiamo parlando di un ente morale, no? Per cui ha un posto, un numero definito di alunni che può accogliere in funzione delle sezioni che ha. Non avendo possibilità di ampliamento, si è trovato nella condizione di limitare i posti, come succede spesso non solo a Verdello ma in tutta Italia, i posti dei bambini che possono essere iscritti. Ecco, si parlava prima di graduatorie. Qual è il problema? Che in questo caso non è stata fatta una graduatoria, non sono stati stabiliti dei criteri come normalmente si fanno per poter accedere alla scuola materna. Di conseguenza l'unico criterio stabilito è stato quello del primo che arriva meglio si piazza. Sì. Ecco. E di conseguenza cosa è successo? Costringendo la gente a fare la notte fuori. La gente è arrivata la notte prima, ha fatto la fila in macchina, ha dormito in macchina, in modo da essere sicuro che il giorno dopo sarebbe stato tra i primi. Però le chiedo, sindaco, lei ha detto non è una scuola che dipende dal comune, a Verdello però come, perché spesso sappiamo che uno va alla scuola privata, al nido privato, alla scuola dell'infanzia privata, perché? Perché non entra nelle graduatorie comunali, appunto. A Verdello invece come siete messi, come accogliete dei bambini? Cioè, se io vivesse a Verdello e facessi una richiesta per mio figlio, c'è la possibilità di avere il posto? Certo, come dicevo prima, però per quanto riguarda la scuola, noi abbiamo una scuola statale, ci sono dei criteri per cui non c'è necessità che uno si metta in prima fila portandosi avanti due giorni prima per iscrivere il ragazzo, ma presenta la propria domanda. Eventualmente, nel caso in cui ci fossero un numero superiore di domande, ci sono dei criteri che stabiliscono appunto una classifica di priorità, per cui già da questo punto di vista mi pare che poteva essere risolto in questo modo. Ecco, il problema qual è? Che di fronte all'aumento della natalità e di conseguenza il numero degli iscritti, il comune di Verdello, come tutti i comuni, per aprire una nuova sezione di scuola statale deve chiedere l'autorizzazione allo Stato. Ecco, noi questo l'abbiamo fatto, noi come parlo di scuola statale, l'anno scorso abbiamo avuto questa necessità di una nuova sezione, è stata chiesta allo Stato questa nuova sezione, e lo Stato, e qui rientra un po' anche il discorso della riforma Gelmini, anziché assegnare le due insegnanti che spettano di diritto alla nuova sezione, ha assegnato un'insegnante sola, di conseguenza sì. Siamo stati costretti a fare le 5 ore, perciò a tempo limitato, per i 13 bambini che facevano parte di questa sesta sezione. Insomma, in ogni caso lei però, sindaco, vuole un po' sminuire la portata di queste... A me ha colpito, voglio dire, vedere certo, anche le foto certo. Sull'eco di Bergamo dei genitori. Professoressa Saraceno, lei la colpisce dei genitori che passano la notte in macchina per cercare di... Mi sembra di tornare agli anni 60, quando questo avveniva per le scuole materne. Tra l'altro mi sembra che non voglio... Molto spesso però succede che magari la scuola, la graduatoria c'è, però io voglio, c'è anche una questione di comodità, voglio mandarla in quella scuola, ho anche magari soldi per poterlo fare, voglio mandarlo nella privata e dunque, insomma, voglio lì. Questo cos'è? Il prezzo della comodità che spesso bisogna anche pagare? Intanto bisogna distinguere tra nidi e scuola materna. Certo. Perché la scuola materna in Italia, allora dal punto di vista della scuola materna, l'Italia è al top delle scuole dei paesi europei, nel senso che ha un livello di copertura attorno all'80-90%. Quindi per i bambini dai 3 anni in su La copertura c'è magari a metà tempo, e ho l'impressione che la scuola statale di cui stava parlando il sindaco si riferiva alla scuola materna, perché non ci sono nidi statali, i nidi sono per i bambini sotto i 3 anni, quindi distinguiamo, lì è stata fatta un po' di confusione. Le scuole materne possono essere sia statali che comunali, ma nel loro insieme coprono in Italia tra l'80 e il 90% dei bambini. Sono i bambini sotto i 3 anni quelli per cui stiamo adesso discutendo, che c'è solo l'11% con questa variabilità di costi tremenda. Le graduatorie ci sono perché è un servizio razionato, purtroppo, perché non è ancora stato pensato come servizio universalistico per tutti i bambini. Allora, tanto più è razionato, tanto più sono necessari dei criteri stringenti. In alcune città è reddito, in altre città è se il bambino è figlio unico, in un altro, ma quasi sempre occorre essere o poveri o con entrambi i genitori che lavorano. Però appena entrambi i genitori lavorano, cioè una mamma casalinga difficilmente riesce a collocare il proprio bambino al nido, per intenderci, anzi quasi impossibile, solo in alcuni comuni della Toscana ci riesce. Però appena sono in due che lavorano scatta il criterio del reddito, quindi lei che blocca tutto, insomma, il graduatorio si è quindi fuori. Il problema non è tanto che si imbroglia sulle graduatorie, ma questo poi è quanto il fatto che non ci sono abbastanza posti, ma proprio questo poi fa aumentare i costi, perché se entrano solo coloro che sono a basso reddito e quindi che pagano o niente o una tariffa sociale, il resto lo paga il resto l'ente. Diventa troppo costoso. No, mi lasci dare il primo ascoltatore, poi c'è l'aspetto che Sergio Rizzo ha introdotto molto interessante sulla questione nidi nelle aziende, o addirittura quella che viene dagli Stati Uniti, ovviamente, come tendenza, quella di portare i figli al lavoro, ci sono, che è diverso dal nido in azienda, cioè portarlo proprio, averlo lì fisicamente anche vicino. Mi ha colpito anche qui una fotografia sul Corriere della Sera di una manager che lavora a New York proprio con la bambina lì nell'ufficio che gira mentre lei è alla scrivania. Questa è addirittura una frontiera ultramoderna. Il primo ascoltatore però è Roberto da Pordenone, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, io ho 52 anni, quindi io e mia moglie lavoriamo entrambi e ci troviamo con questo bel problema che, non avendo nessuno dei due genitori che possono accudire nostra figlia, la mandiamo al nido, dove spendiamo 400 e qualcosa euro al mese per il servizio, che non ci sono prestato a toccare, e entrambi utilizziamo per lavorare, fra parentesi. Allora, è inutile continuare a girare intorno al problema del come fare a fare più asili nido e come aiutare le famiglie che effettivamente hanno necessità di appoggiarsi a un asilo nido, perché lavorano entrambi. Nel momento in cui io faccio la dichiarazione dei redditi e mi concedete di portare in detrazione le spese che io ho per l'asilo nido, mi avete aiutato, e lo avete fatto mirati a chi in certe fasce di reddito medio-basso ha necessità di portarli, perché tutti e due lavorano. La dichiarazione dei redditi certifica che siamo dei lavoratori dipendenti o che comunque siamo dei lavoratori che non possiamo permetterci una cosa diversa, e quindi non stiamo barando su questo, perché la dichiarazione dei redditi fa fede. Dateci la possibilità di detrarre questi soldi e vedrete che gli asili nido, che lo Stato non è in grado di fare a costi ragionevoli, spunteranno come funghi dai privati. Va bene, grazie. Prima degli ascoltatori ci ha raggiunto, lo saluto, il sindaco di Foggia, Orazio Ciliberti. Buongiorno sindaco. Buongiorno a lei. Sono tra poco da lei. Prima, allora, gli ascoltatori, ma innanzitutto vedo dallo schermo, ma come ascoltatrice ci ha chiamato Luisa Todini, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Luisa Todini, l'imprenditrice, insomma, che conosciamo anche, è lei, sì. Sì, sono io, buongiorno, mi scusi perché andando verso il luogo della mia riunione, come sempre ascolto la vostra trasmissione, siccome noi come azienda siamo stati protagonisti della costruzione di un asilo nido aziendale, con il bando che voi ricorderete del secondo governo Berlusconi, era 2001-2002, era il bando delle pari opportunità e del welfare all'epoca. Le sintetizzo cosa successe. All'epoca il bando fu vinto da poco più di 80 aziende in tutto il territorio italiano, tra cui lo vincemmo noi, asilo nido aziendale. Il contributo previsto era un bando pubblico, naturalmente. Previsto erano circa 120.000 euro. Ecco, queste 80 aziende, tra cui noi, hanno vinto il bando. Noi l'asilo l'abbiamo costruito, pur sapendo che c'è difficoltà ad avere i fondi. I fondi, a distanza di più di 6 anni, non sono mai arrivati, perché ci fu un conflitto di interessi tra statuito dalla Corte Costituzionale, tra il welfare e le regioni. Cioè si disse: no, il bando non devono fare il ministero, lo devono fare le regioni. Il fatto sta che la maggior parte delle aziende decise di non procedere con la costruzione della struttura perché non avrebbero mai visto i fondi pubblici. Io l'avevo promesso all'azienda e al quartiere, mi sentivo in dovere, abbiamo costruito l'asilo che oggi ospita circa 50 bambini. Se l'hai dovuto pagare sostanzialmente. Assolutamente. Vabbè, assolutamente. Una storia un po' all'italiana, ecco. Abbiamo anche cambiato luogo di azienda, quindi l'asilo l'abbiamo lasciato in dotazione al quartiere perché purtroppo non potevamo trasportarlo. Quindi queste sono le problematiche, dato che finora ho sentito giustamente dire contributo pubblico, privato, intervengono i privati. Il problema è che quando i privati ci mettono del loro, poi spesso il pubblico non ci mette del suo, e questa è una situazione che è stata avallata dai vari governi che si sono succeduti, quindi destra e sinistra, non è una polemica politica naturalmente. No, va bene, la ringrazio insomma per la testimonianza, grazie Luisa Todini. Sì, c'è questo problema. Il lavoro e i nidi nelle aziende, tra poco ci arriviamo con Sergio Rizzo e Chiara Saraceno. Prima, sindaco Orazio Ciliberti, allora, io ho citato qualche cosa di classifica, andiamo alla classifica dei costi, per esempio l'abbiamo visti che a Roma costa molto, Milano ha la metà, Napoli, Torino eccetera. Andiamo a vedere quelle che sono per esempio la recettività. Abbiamo detto che l'11,4% di bambini trova spazio come media nazionale, ci sono dei picchi di eccellenza, per esempio Campofranco 90% di bambini in provincia di Caltanissetta, Gaglianico 66%, Caltabellotta 65%, tutti paesi un po' piccoli. Foggia l'1%, un disastro, sindaco Ciliberti. Sì, ma credo che questa statistica sia costruita sul dato che riguarda gli asili comunali. Il comune ha anche delle convenzioni con asili privati che andrebbero a integrare, diciamo, questo dato. In realtà non è così basso nella nostra città, e credo che anche in altre città bisognerebbe considerare il dato complessivo degli asili comunali gestiti direttamente dal comune e degli asili di privati convenzionati col comune che comunque vanno a integrare il servizio. Quindi lei dice contesta in questo senso la cifra, non so, siccome c'è Sergio Rizzo, che questa Sergio è così, insomma, cerca di spiegarci questo 1%, perché il sindaco fa una difesa d'ufficio, giustamente. Non lo so, io senti, voi ti dica, quelli sono dati ufficiali dell'ANCI. Dell'ANCI, che è l'associazione dei comuni, peraltro. Quindi sono elaborati loro, io fisicamente non sono andato a Foggia a controllare, sinceramente, ma diciamo, penso che queste classifiche siano fatte con una certa professionalità, immagino, visto che l'ANCI è l'associazione dei comuni a cui contribuisce anche il comune di Foggia, credo. Quindi, poi certo, probabilmente ha ragione anche il sindaco, ci sono degli asili privati, alcune città avranno anche delle forme particolari, trovandosi in difficoltà particolari avranno messo in atto delle convenzioni. Sì, però effettivamente, sindaco Ciliberti, dall'1% fotografato, voglio dire, di quanto può salire con le convenzioni? Non mi potrà dire che è una punta di eccellenza. Sì, no, ma ripeto, solo con le convenzioni la città di Foggia serve 400 bambini. Ci sono 8 asili privati convenzionati che servono 400 bambini, quindi diciamo che il dato cresce di molto se si considera i privati convenzionati col comune. Certo, con il personale del comune, considerato che c'è stato un blocco dei turnover nel comune di Foggia come in altri enti locali, non si riesce a sopperire, allora ci si rivolge in outsourcing all'esterno, e questo diciamo integra sufficientemente. Vabbè, ma insomma mi sta dicendo che non dovrebbe fare di più Foggia. No, guardi, le sto dicendo che non può fare di più, perché consideri che le politiche per l'infanzia sono quelle che risentono maggiormente delle crisi finanziarie degli enti locali, in quanto è un servizio che ha un grado di elasticità maggiore rispetto ad altri servizi pubblici, penso, che ne so, al trasporto urbano, alla gestione del ciclo dei rifiuti. sulle politiche dell'infanzia purtroppo i comuni operano dei tagli quando non hanno risorse sufficienti, e anche quello di Foggia ha dovuto in qualche modo fare questo per sindaco, però che... mi permetta, io non lo so se così si fa in politica, ma direi male, anzi malissimo, nel senso c'è la crisi, che cosa si taglia? Le prime cose, appunto, i servizi per l'infanzia, quelli più flessibili, lei ci dice, ho capito, però le famiglie che fanno, voglio dire, già appunto c'è la, si dice c'è la crisi, arriverà la crisi, se poi gli si tolgono anche i servizi, gli si toglie la possibilità di mettere i bambini al nido, gli si toglie la possibilità dei servizi, i trasporti pubblici, e poi dopo tutto ha un moltiplicatore di costi. È così, però io la prego di considerare che la situazione degli enti locali, dei comuni in particolare, in questa fase è difficilissima, gravissima, a causa di una crisi finanziaria che dipende dalle scelte di governo centrale, di centrodestra e di centrosinistra, perché parliamo delle finanziarie che vanno dal 2002 in poi, che hanno tagliato trasferimenti. Da ultimo hanno tolto anche una quota importante dell'ICI a fronte di un aumento dei costi dei servizi pubblici locali, cioè è una coperta corta che purtroppo determina scelte molto infelici, molto penalizzanti per le comunità, e tra l'altro mette anche gli amministratori nella condizione penosa di fare queste scelte. Quindi di questa condizione bisogna tenere conto. Accidenti, no, è un'ammissione, voglio dire, lei alza un po' le mani, dice così. Professoressa Saraceno, che effetto le fa sentire? No, purtroppo lo sapevo, mi fa... Cioè, si va a tagliare lì dove le famiglie hanno più bisogno. Esattamente quello che succede, perché, aggiungo, il sindaco non l'ha detto, perché si può tagliare il nido e non i trasporti? Perché il nido è un servizio a domanda individuale, non fa parte di nessun livello minimo di garantito. In sanità esistono i livelli minimi assistenziali, non esistono le politiche sociali, non riguardano i nidi, e quindi i sindaci, che devono decidere dove tagliare, si sentono più liberi di farlo lì, anche perché vanno a incidere su che cosa? Non solo sulle famiglie, ma sulle donne, cioè su qualche cosa che viene dato per scontato, cioè al punto da dire che sono le famiglie che sovraccaricano lo Stato, il comune con le loro richieste. Sembra quasi che le famiglie, e in particolare le donne che lavorano, siano delle egoiste, perché vogliono affidare al pubblico e a costi pubblici quello che sarebbe il loro dovere. Cioè, io lo capisco. Capisco il sindaco, non lo sto affatto demonizzandolo, però ha fatto esattamente il quadro perfetto di quello che succede. Di quello che succede, ma anche di come si argomenta, ma non solo a livello dei comuni, anche a livello dello Stato, anche a livello dei singoli governi, e mi spiace dire anche a livello dei singoli partiti. Cioè, il nido fa bene, lo si mette nel programma elettorale, ma poi è la prima cosa che si può tranquillamente tagliare. Allora, un paio di ascoltatori. Marco dalla provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, non per fare la voce fuori dal coro, io sono un sindaco di un comune che si chiama Basilio Milano 3. Ah, sì. E noi le politiche sociali, le abbiamo in questo caso dedicate all'infanzia, le abbiamo praticate fin dall'inizio, fin dal 2003, da quando sono stato eletto per la prima volta sindaco. Abbiamo più che raddoppiato i posti di asilo nido, ma soprattutto abbiamo creato un'offerta diversificata per andare incontro anche alle varie esigenze dei cittadini. Faccio un esempio, l'asilo comunale è stato completamente... rimodificato, ha aumentato la quota del 20% la capienza. Abbiamo fatto una convenzione, anzi abbiamo aiutato un'azienda ad aprire un nido aziendale, grazie a una legge diciamo regionale che la finanziava, con una convenzione con il comune, da modo che alcuni posti, cioè un 20%, fossero dedicati al territorio. La stessa cosa abbiamo fatto con un asilo nido addirittura bilingue. E poi ci sono i nidi famiglia, che sono un'altra esperienza molto importante per i bambini da zero, diciamo, a un anno, che abbiamo aiutato ad aprire. Quindi gli enti locali, per andare un po' contro tendenza, sì, non è vero che la prima cosa che fa è tagliare questi che sono giustamente costi flessibili perché sono a domanda individuale, ma la politica ha proprio questo compito, cioè dare una risposta dove c'è più bisogno, e il bisogno ce l'ha sicuramente la famiglia in questo momento. Lo so, caro sindaco, però insomma questo in quello che è l'ideale, però forse il sindaco di Foggia Ciliberti ci ha sbattuto in faccia quella che è la dura realtà di un amministratore, di quello che fa, insomma almeno ha avuto il coraggio di dirlo. Poi dopodiché insomma è chiaro che anch'io sono rimasto un po' colpito dal fatto che si taglia laddove c'è più bisogno. Lei dice no, si può fare invece la buona politica non dovrebbe fare così, vero? Dopodiché vai a trovarla la buona politica. No vabbè, ma questo è un po' qualunquista. Luca da Perugia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. senta, allora, noi, io e mia moglie abbiamo una bambina di 13 mesi. Fortunatamente a settembre siamo rientrati nelle graduatorie per l'asilo nido, anche perché io lavoro a Montebelluna, quindi avendo la sede di lavoro fuori ho scalato un po' di classifica. Quando si compie bella sta cosa, no? Bella sta cosa dell'italiano che deve cercare di scalare la classifica della graduatoria a 2 punti di qua, 3 punti di là. Dica Luca. Quando si compila la domanda per la missione, bisogna individuare anche l'orario nel quale il bambino verrà portato all'asilo. L'abbiamo fatto tranquillamente. Mia moglie poi il mese scorso ha cambiato lavoro, ha cambiato datore di lavoro e sono modificati leggermente gli orari. Abbiamo fatto domanda al comune per variare anche gli orari di ingresso all'asilo nido della bambina e non c'è stato permesso. Quindi ci hanno detto che per variare gli orari dovevamo trovare l'accordo con un'altra famiglia che avrebbe sostituito nella nostra fascia oraria. Ah certo, sì. E vabbè, morale della favola, vi siete trovati morale in difficoltà, ecco. Morale della favola, siamo trovati in difficoltà per questa rigidità del comune o dell'asilo. Abbiamo tolto nostra figlia dall'asilo, in questo momento mia figlia sta a casa con la nonna, purtroppo non è una soluzione che possiamo mantenere a lungo, stiamo pensando il mese prossimo di mandarla ad un asilo privato. Per il momento santi nonni come molte famiglie ben sanno. No, grazie Luca, la fermo qui, ma è la sua storia emblematica, insomma, di quello che succede spesso in Italia. Piero da Monza, buongiorno. Piero, ci sente? È in coda? Sta scalando la graduatoria, no? Piero, lo recuperiamo. Sì? Ci sente? È in diretta? Sì, sono in diretta. Dica. Io volevo sottolineare una cosa per quanto riguarda le graduatorie. Effettivamente è stato detto che le graduatorie negli asili hanno una scaletta del tipo il reddito, che deve essere entro certi parametri in ogni caso basso, e soprattutto se poi i genitori lavorano. Succede il caso che nel reddito basso, anche con tanti figli, purtroppo, ahimè nel mio caso, da un punto di vista sociale lodevole, entrano sempre categorie veramente con un reddito estremamente basso, che sono in pratica gli extracomunitari. Nel mio comune dove abito, in pratica succede questo, che in una classe di 20 bambini, per quanto riguarda la popolazione di un reddito così basso, è decisamente inferiore al 10%. Per farla breve, in un'aula di 20 bambini, allora se vogliamo guardare una cosa corretta, dovrebbero entrare due bambini, mi rendo perfettamente conto che sono pochi, facciamone 4, facciamone 5, facciamone 6. A un certo punto ci dovrebbe essere una graduatoria scalare in modo tale che anche altri che hanno un reddito. Lei pone anche la questione, ricordate che fu anche la questione politica molto molto sentita, le graduatorie ma io lo devo, le politiche sociali sono d'accordo, mi sta bene se uno è una persona disagiata che deve essere facilitata. Sì, però lei dice che non bisogna abusare da questo punto di vista. Dall'altro punto di vista, poi concludo carissimo, se uno prende 1000 euro e l'altro 1000 euro, adesso la sto banalizzando, dice 2000 euro, però sei ricco, per usare questo aggettivo, e di conseguenza io non potrò mai entrare. Di conseguenza io poi faccio un'altra cosa, cioè, e si prende sul reddito, si è tassati, una persona viceversa, dato che è una questione di proporzionalità, che ha un reddito modesto prende meno tasse, morale alla favola, io non avrò mai diritto a fruire dei servizi sociali, perché in questo tipo di graduatorio, in queste politiche di sociali, io sarò sempre escluso, però chi ne fruisce, bontà sua. Va bene, grazie Piero, è stato chiarissimo. Professoressa Saraceno, le piace l'idea del nido nelle aziende, nelle imprese, ed è una linea sulla quale l'Italia è molto indietro, e addirittura le chiedo anche la frontiera nuova, quella dall'America, il bebè vada in ufficio con la mamma proprio, allora, fisicamente? Tanto bisogna ricordarsi a cosa serve il nido, serve ai genitori che lavorano, dovrebbe servire anche ai bambini. Quindi dovrebbe essere un luogo educativo, non soltanto, quindi portarseli dietro al lavoro forse non è il modo migliore per salvo alcune situazioni privilegiate, non a caso riguardano le manager, le ministre, eccetera. Mentre lei raccontava questo esempio, io pensavo ma non solo all'operaia sulla catena di montaggio, ma anche alla normale impiegata che divide l'ufficio con altre tre o quattro. Sì, infatti questo è il problema che in America molti vivono, ma come io devo vedermi un bebè che scorrazza qui mentre lavoro, perché è il bebè della mia collega, del mio collega. Se ci permettessero di farlo, quindi non esiste come soluzione, esiste per alcune persone privilegiate che si possono fare la camera all'allattamento, che possono dire alla segretaria darci un occhio e così via, e non altro. Anche qui nell'istituto dove io sto hanno creato, che è una cosa buona, una stanza per i bambini e dove i genitori a turno magari fanno i turni per guardarli, però quasi tutti li mandano al nido, sono le cose che uno fa eccezionalmente perché quel giorno il nido è chiuso e ci si dà una mano, ma non è la grande soluzione. I nidi aziendali sono una cosa molto più seria. E anche in Italia, come ha raccontato l'imprenditrice prima, con o senza l'incentivo della legge, che poi non è stato attuato, sono stati fatti e sono interessanti. E sono tanto più interessanti quanto più sono fatti in collaborazione col comune, sì. Cioè nel senso non solo dal punto di vista educativo, ma diventano anche nidi di quartiere. Ma è una parte della soluzione, quindi soltanto le grandi aziende possono permettersi, gli vale la pena, cioè anche di fare l'investimento. Non dimentichiamo che in c'è Italia, ancora un freno però su questo, come? Secondo me c'è un freno ancora, non so se culturale, da parte delle anche delle aziende e delle grandi imprese che potrebbero permetterselo a farlo, oppure no, c'è un'apertura. Diciamo culturali, perché per un po' si è pensato che le cose potessero avvenire, che so, senza standard educativi, ma o perlomeno in cui ciascuna si definiva il proprio, ma credo che dentro un quadro comune di come devono essere formate le persone, come devono essere gli standard abitativi e così via, cioè le stanze eccetera, non c'è tanto problema. Il problema è che, come lei sa meglio di me, la maggioranza dei lavoratori e delle lavoratrici soprattutto non lavora in grandi aziende, certo, lavora nelle piccole e medie imprese. Occorre assolutamente una politica pubblica che può non essere, questo aveva ragione il sindaco di Foggia, necessariamente che il comune li fa lui i servizi, può farsi le convenzioni, li può controllare, può supervisionarli, ma ci vuole un investimento di denaro pubblico, non solo pubblico, ma ci vuole un investimento. Ci vorrebbe anche l'intervento di quella buona politica. Sergio Rizzo. Sì, ci vorrebbero anche una definizione di standard minimi di copertura che in Italia mancano, perché la storia che ha raccontato Todini nasce dal fatto, dalla riforma del titolo quinto della Costituzione, cioè qui le regioni dissero no, i nidi sono una questione che riguarda noi, non fanno parte delle politiche dello Stato, o lo Stato definisce gli standard minimi e allora può metterci dei soldi perché deve garantirli, se però non li definisce sta a noi decidere quanto e come farli. Sì. Sergio Rizzo, sempre per tornare alla questione di quello che ci ha detto il sindaco di Foggia, Orazio Ciliberti, che voglio dire ci ha dato questa fotografia molto realistica di quello che in realtà fa la politica, soprattutto in questi momenti di crisi. È proprio quello che dicevi tu anche all'inizio del tuo articolo, della tua inchiesta sul Corriere della Sera, cioè il contrario di quello che la buona politica dovrebbe fare, investire lì, però non conviene. Ma secondo me questi amministratori locali dovrebbero intanto tutti quanti guardare bene dentro casa propria, perché giustamente cosa fanno loro? Tagliano, come lo Stato chiude un po' i rubinetti, no? Loro prendono subito la scusa per tagliare le cose che invece non dovrebbero tagliare, no? E mentre invece non pensano a rendere efficiente un'amministrazione locale che spesso è fonte di sprechi allucinanti, no? Questo capita frequentissimamente. Abbiamo raccontato casi di, tanto perché il sindaco ha citato le aziende di trasporto locale, ci sono aziende di trasporto locale al sud che con il biglietto coprono il 15% dei costi, mentre invece in altre città si arriva tranquillamente al 40-50%, non che si risolva il problema così, però io penso che l'amministrazione locale dovrebbe innanzitutto cercare di essere efficiente, quindi cercare di ridurre gli sprechi, e in quel modo lì si riuscirebbe, io sono convinto, a evitare dei tagli che sono dei tagli che hanno delle conseguenze gravissime, perché l'Italia è un paese nel quale c'è un problema enorme che nessuno finora ha ricordato e che è legato a questo fatto degli asili nido. Il 46% appena delle donne lavora, contro una media europea che è intorno al 60%, se non sbaglio. Anche per quello, perché chi si tiene i bimbi? Anche per questo motivo. E quindi tutti quanti hanno un bel dire, la famiglia, bisogna rilanciare la famiglia, bisogna tutelare i bambini, bisogna tutelare i nuclei familiari, poi però nessuno concretamente fa niente. E nessuno concretamente fa niente per risolvere il problema delle donne che non vanno a lavorare. Andiamo da Maurizio, dalla provincia di Milano, se ce la facciamo ancora, l'ultimo ascoltatore. Maurizio. Sì, buongiorno. Buongiorno Alessandro, sì. Sono il vice sindaco del comune di Cormano. Ah, buongiorno. Noi ci proviamo a fare della buona politica, come dice Rizzo, e ovviamente rispetto a Foggia facciamo delle scelte. Noi abbiamo cercato di privilegiare la costruzione degli asili nido, ne abbiamo appena iniziato a costruire uno che è costato 1.200.000 euro alle casse del comune. Quando finirà questo asilo nido avremo il 35% di copertura rispetto ai bambini che ci sono a Cormano, ma il mio intervento voleva dire solamente questo. Attenzione però non solo ai costi, ma anche al livello della qualità. In Lombardia gli asili nidi privati godono della possibilità di poter essere aperti in luoghi che sono completamente diversi rispetto a quelli che invece vengono chiesti a noi, amministrazione pubblica, quando decidiamo di costruire un asilo nido. A Milano esistono asili nido che sono stati aperti in scantinati, che costano di più rispetto a un asilo nido privato e che quindi evidentemente possono offrire un servizio davvero diverso. Noi abbiamo proprio visto nella costruzione di questo nuovo asilo nido, ci abbiamo messo 6 mesi in più perché la ASL ci ha fatto le pulci, perché volevano 5.000 metri quadri di giardino, perché volevano la cucina fatta in un certo modo, perché volevano le parti comuni fatte in un certo modo. Dice, la burocrazia anche aumenta i costi, insomma, la burocrazia. Ma i costi poi, vabbè, ma adesso siamo anche in conclusione, come ha spiegato bene anche Sergio Rizzo nella sua inchiesta, i costi sono legati alle questioni, ai servizi delle mense, ai servizi anche e anche al personale, forse in molti, molti comuni, un po' troppo rispetto a quello che è necessario. In ogni caso ci fermiamo qui, sono tantissime le richieste che sono arrivate, il tema come ovvio è ben sentito perché tutti ci abbiamo a che fare quotidianamente. Grazie alla professoressa Saraceno, a Sergio Rizzo, a tutti coloro che sono intervenuti, in redazione Alessandro Marco Tulli ed Elisabetta Fusconi e Fabio Cantadori oggi in regia. Con Viva Voce ci ritroviamo domattina. Viva Voce.